Summertime di Elisabetta Fiorito. Cerca quest'uomo, questo funzionario del destino, concessionario della divina volontà, questo impiegato della storia a cui nulla è concesso per sé se non la coscienza di agire per gli altri, per la salvezza di tutta la sua stirpe. Una regina, bella, ricca e potente, si innamora di lui, ma lui deve partire per fondare una città al di là del mare che per secoli e secoli regnerà su tutto il mondo. Buon pomeriggio, riandiamo a Velia Teatro, la 13ª edizione, perché questa sera è in scena Un viaggio agli inferi per riscoprire l'io, concerto dal sesto libro dell'Eneide, sì, quello in cui, ricordando, c'è anche questa scelta di scendere al Tartaro oppure di salire ai Campi Elisi. È oggi l'ultimo spettacolo di questa rassegna che Summertime ha seguito con molto interesse. Abbiamo in linea con noi Matteo Belli, che ha curato la regia e interpreta anche questo spettacolo. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Allora, musica e poesia sullo sfondo del mito, come si alternano e come esce fuori questo Enea agli inferi? Ma dunque, intanto, essendo un concerto teatrale, la fusione pressoché costante dei due linguaggi. E quindi, quando concepimmo questo lavoro con Paolo Vivaldi, proprio l'intenzione era quella di creare un ordito scenico in cui la parola, l'azione, le luci, il suono, quindi la musica, si fondessero nel più intenso e intrecciato dei modi, per cui non c'è tanto un alternarsi quanto un raccontare insieme questo viaggio. E poi l'idea ovviamente è una visione moderna di un Enea che, pur attenendoci al dettato virgiliano, traducendolo di sana pianta, quindi non ci siamo rifatti a traduzioni già esistenti, ma abbiamo cercato di dare alla parola, per l'appunto, una visibilità moderna, così per il pubblico attuale. Però è sicuramente la visione di un uomo che viene condotto in questo viaggio secondo una volontà superiore, un progetto che travalica le sue aspettative, le sue capacità di autodeterminazione di essere umano, e quindi viene condotto secondo un intendimento che lo utilizza come vettore di volontà superiori, prima nel fuggire da Troia, preservarlo ovviamente dal peggiore dei destini e poi condurlo per 8 anni in questa peregrinazione esausta e estremamente complessa per il Mediterraneo, noi ci occupiamo di questa, del sesto libro, quindi fino alla discesa agli inferi, che dal lago di Averno prende le mosse e quindi porta Enea a rivedere, a rincontrare le persone più importanti della sua vita. Matteo, voi intanto state traghettandovi con il pullman verso, esatto, Velia, quindi scusiamo con i radioascoltatori per il trambusso, quindi anche voi state facendo il vostro viaggio. Parliamo di questo sesto libro. Allora, un sesto libro in cui si scopre l'aldilà, ritroviamo il fiume Stige, Caronte, Cerbero. Perché dico ritroviamo? Perché lo sappiamo, ovviamente, è stata un po' la fonte di ispirazione di Dante, dell'inferno dantesco. Certo, sì, è stata la fonte di ispirazione di Dante, non per niente poi anche noi dopo un anno facemmo un inferno di Dante con la mia compagnia, anche insomma, se si tratta di monologo, è sempre l'associazione Carossa, Centro Teatrale per l'Oralità, che produce entrambi gli spettacoli. Certo. Quindi sì, è stato un po' così un percorso, ma io diciamo mi occupo di inferi perché trovo una grande vitalità insomma in questi inferi, in questa capacità dei personaggi di rincontrare questi queste figure salienti per la loro vita, ma anche poi paradigmatiche per il destino dell'umanità, e quindi nel momento in cui loro raccontano la loro vita e gioco forza la loro morte, in realtà sprigionano una capacità di vivere, di sentire, di soffrire e anche di assaporare il senso della vita umana straordinario, e questo io lo trovo sia in Virgilio che in Dante di una portata clamorosa e quindi eccezionale, ovviamente per noi nel momento in cui la mettiamo in scena, ma vedo anche di grande impatto sul pubblico, certo, che evidentemente ritrova motivi di grande interesse. Matteo, adesso ascoltiamo un altro brano dal tuo spettacolo. C'era una grotta profonda, spaventosa nella sua ampia apertura, rocciosa, inaccessibile per le acque nere e i boschi tenebrosi. Nessun uccello poteva volare sopra di quella, così un velenoso respiro saliva dalle sue nere spelonche fino alla volta del cielo. Qui la sciamana sbilla, legò quattro vitelli neri, versò vino sulle loro fronti e come prima offerta incenerì nelle fiamme sacre il pelame che aveva strappato tra le loro corna, invocando la dea dell'inferno che ha potere nel cielo e nelle tenebre. Altri due coltelli ammazzano le bestie e raccolgono tutto il sangue nelle grandi tazze. Enea con la spada colpisce una pecora nera. Del furore. Matteo, possiamo paragonare anche di nuovo Enea a Dante, perché tutte e due intraprendono un viaggio nell'aldilà essendo vivi. Esatto, e infatti è questa l'emozione poi che li lega alle anime che si sorprendono nel vederli vivi e chiedono come mai tu qui vivo hai il diritto di scendere in questo mondo, in questi, spesso si parla di orrori ovviamente ad incontrare, ma è un po' il punto di vista del lettore, insomma, il lettore che ha la possibilità attraverso Enea e attraverso Dante di incontrare mondi così diversi, ma come ho detto prima, così vicini alla, a una sensibilità sicuramente estrema, forte. Insomma, sono viaggi per palati forti, però. Quante persone sono sul palcoscenico, Matteo? Siamo in quattro: Paolo Vivaldi al pianoforte, che ha composto le musiche, Teresa Ceccato al violino e Claudia Della Gatta al violoncello. Qual è il momento più triste? Quello che magari Enea incontra Didone, che è molto gelida, e lui piange. Esatto, qual è? Esatto. Quello sicuramente è uno di quei momenti che più ci avvicinano a una sensibilità universale più che moderna, e poi l'altro senz'altro l'incontro col padre. E l'incontro col padre si commenta da solo, sono poche parole, noi l'abbiamo ridotto ad un'estrema sintesi, espungendo ovviamente tutto il Anchise, progetto. Anchise è un po' buddista, no? Perché spiega la dottrina dei cicli, delle rinascite, insomma è un momento topico dell'Eneide, o sbaglio? Sì, il momento più, diciamo, abbiamo tralasciato il momento più filosofico e soprattutto agiografico della politica filo-augustea, perché ovviamente poi lì si dilunga estremamente nel descrivere le sorti future di Roma. Abbiamo lasciato il momento, l'incontro fra padre e figlio, ovviamente con tutta l'intensità spirituale ed affettiva che lega i due, anche perché ormai siamo in chiusura di spettacolo, e quindi c'è questo momento poetico, molto intenso, sì, poetico, esatto. Un momento poetico. Allora, abbiamo sentito Veglia Teatro, 13ª edizione, oggi l'ultimo spettacolo, si chiude in bellezza, un viaggio agli inferi per riscoprire l'io, concerto dal sesto libro dell'Eneide tra musica e versi di e con Matteo Belli. Grazie Matteo. Grazie a voi, arrivederci, a presto, ciao, grazie. Radio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate. sappiamo che durante questa settimana c'è stato il grande rientro, però vogliamo dire a chi è rientrato in città, in questo caso a Roma, che c'è la possibilità di divertirsi ancora. L'estate non è proprio troppo finita, perché in questo momento c'è questa rassegna bellissima Jazz Pop World Music a Villa Carpegna fino all'8 settembre. Odio l'estate, Stefano Mastruzzi è l'organizzatore, quindi molti eventi in cartellone. Sì, è vero, come hai detto tu, tantissimi artisti portiamo sul palco quest'anno. Iniziamo proprio questa sera, quindi il 23 agosto, con una bella marcia in band che girerà per tutta la villa. E poi inizieranno questa grande rassegna dove abbiamo prima una serie di cantautori importanti, quindi Simone Cristicchi, Gino Paoli, Gio Barbieri, quindi anche generazioni veramente lontane fra loro a confronto, sempre poi in contesti molto raccolti. Quindi l'esempio Gino Paoli è con uno straordinario quartetto jazz con Danilo Rea, Flavio Boltro e Roberto Gatto, e anche Cristicchi si presenta con una formazione abbastanza particolare, con un quartetto d'archi addirittura, quindi sarà una divertente rilettura dei suoi successi. L'appuntamento a che ora è? Perché vedo che ci sono Jazz Appetizer alle 19 addirittura, quindi poi alle 21 invece ci sono i concerti principali, no? Esatto, è un lungo appuntamento, tutte le sere dalle 19 alle 24, e il bello di tutto ciò è che è ingresso libero, e quindi iniziamo già dalle 19 in genere con aperitivi, con gruppi jazz giovani, con presentazioni di novità discografiche, editoriali, incontri con autori, poi c'è il concerto principale, e poi nella seconda parte della serata c'è anche un'altra cosa divertente, ci saranno dei film muti degli anni 20, anni 30, quindi parliamo di Charlie Chaplin, addirittura Alfred Hitchcock, il primo film del 26, però sono realizzati dal vivo, quindi ci sono dei musicisti sul palco che commenteranno, faranno una colonna sonora estemporanea in base alle immagini che verranno proiettate. Quindi l'appuntamento, come diciamo, è a Villa Carpegna a Roma fino all'8 settembre, e avremo tantissimi appuntamenti: Gino Paolo, Simone Cristicchi, Gegette Osforo, Gio Barbieri, Mimmo Epifani. Insomma, vi siete proprio messi sotto, eh? Sì, siamo sbizzarriti. Poi la chiusura l'abbiamo pensata di affidare a questa, alla Tarantella, quindi sono due giorni dedicati alla Taranta, e la Taranta poi ha varie accezioni, varie sonorità diverse a seconda che ci risposti da un paese all'altro, quindi abbiamo invitato gruppi del Salento, un'orchestra della Calabria, fino ad arrivare anche alla Campania, quindi tantissimi artisti sul palco a confronto. E poi ecco, una serata a cui tengo particolarmente è quella del 6 settembre, perché lì celebriamo i 35 anni del St. Louis, che è una grande scuola che ha organizzato tutto questo, e ci sarà quindi l'orchestra del St. Louis con Javier Girotto, che è un grandissimo, uno straordinario sassofonista ormai italiano acquisito, in realtà è argentino. Allora eseguiranno appunto il suo ultimo lavoro discografico. Appuntamento allora a Villa Carpegna fino all'8 settembre alle 19, il concerto principale alle 21 per la rassegna Odio l'estate, Jazz, Pop and World Music. Grazie Stefano. Grazie, a presto. Summer time. E adesso andiamo a Bassano del Grappa, sì, perché anche quest'anno si apre B-Motion, i nuovi linguaggi della danza e del teatro. Opera Estate Festival in Veneto, diventato un punto di riferimento, e noi questa settimana parliamo della sezione danza, e poi lunedì ci occuperemo della sezione teatro. Buon pomeriggio a Roberto Casarotto, responsabile dei progetti Danza Internazionale. Si parte alla grande questa sera. Sì, buon pomeriggio, si parte oggi appunto con il progetto B-Motion Danza, che raccoglie opere, installazioni, spettacoli di molti autori attivi in tutta la scena internazionale. Coreorom. Brevi estratti dalle sperimentazioni in corso condivise con il pubblico. Quindi The Place di Londra, Des Ateliers di Rotterdam, The Shenzhen Copenaghen, insomma Madrid, Dance Week Festival Zagabria, 9 coreografi a confronto, quindi sono piccole pillole. Questo pomeriggio è partito alle 15. Questo progetto è un progetto molto importante per noi, perché appunto offre un'opportunità quasi unica in Europa, ossia 8 mesi di ricerca, 9 coreografi che vengono appunto dai paesi citati, che sono Croazia, Inghilterra, Olanda, Italia, Spagna e Danimarca. questi artisti per 8 mesi, attraverso delle residenze nei vari centri che lei ha appena nominato, creano delle sperimentazioni, e appunto qui a Bassano, dopo una residenza che si è svolta la settimana scorsa, gli artisti presentano il momento in cui appunto da un punto di vista creativo si trovano, ossia presentano lo sviluppo che fino a quel momento hanno realizzato dei vari temi che stanno ricercando. È un progetto che propone un importante dialogo che oltre che artistico è anche culturale, proprio perché appunto tutti i soggetti coinvolti vivono nei diversi paesi e quindi hanno un modo di confrontarsi costantemente con il pubblico, un pubblico bassanese che appunto oggi vedrà il risultato di queste sperimentazioni. Poi vedo che da domani al 4 ci sono proprio delle sperimentazioni che avvengono alle 10, alle 13, alle 15, alle 18, no? Video installazioni, una serie di installazioni fotografiche. Poi invece si va agli spettacoli veri e propri, se così vogliamo dire, no? Da domani alle 21 con Van der Broek e Ward in Olanda, Luis Guerra, Bomba Suicida, Portogallo, giovedì 26 agosto, Kat Valastour, Germania e Grecia, poi sempre Ward. Insomma, ci sono vari spettacoli che avvengono invece alle 21, alle 21.30, alle 22 per tutta la settimana, giusto? Tutti i giorni è possibile vedere delle installazioni in cui appunto vengono presentati dei lavori video e dei lavori fotografici legati a dei progetti che abbiamo via via sostenuto durante l'anno, e poi appunto in serata entriamo nel cuore del programma quando presentiamo proprio questi lavori che sono rappresentativi di diversi approcci alla danza contemporanea. Gli autori sono molto giovani o più conosciuti come Nigel Charnock, Carlotta Sagna, e ognuno porta appunto dei lavori recenti, per cui è un po' un piccolo panorama su quella che è la realtà della danza contemporanea in questo momento a livello almeno europeo. Allora ringraziamo Roberto Casarotto e ricordiamo che da oggi è già partito B-Motion, il festival di danza e teatro a Bassano del Grappa per Opera Estate Festival in Veneto. Per tutta la settimana presenterà i più giovani coreografi e ballerini sperimentali e non sulla scena della danza europea e internazionale. Grazie Roberto. Grazie a voi, arrivederci. E noi ci siamo chieste tante volte quale sia il potere della tarantella, però poi quando si ascolta non si può fare a meno di ballare, almeno comunque di accennare qualche passo, perché oramai sono pochissimi coloro che veramente sanno ballare la tarantella. E dal 24, quindi da oggi, fino al 28 agosto in Calabria, il Kaulonia Tarantella Festival riprodurrà appunto tutte le maggiori tendenze rispetto a questo genere musicale, e noi qui a Summertime diamo il benvenuto al direttore artistico, che è Eugenio Bennato, un nome molto famoso. Grazie allora di essere venuto. Qual è il potere oggi ancora di questo ballo, che poi è un ballo, è una melodia, è un ritmo, e che ancora affascina tutti quanti? Allora, il potere in questo momento lo sto vivendo come capacità di dire qualcosa di contemporaneo. Intendo dire che ai concerti di questo tipo di musica si vive una realtà che diciamo che sicuramente rappresenta una verità, una verità, perché ci racconta proprio la storia di oggi, ci racconta la tensione fra globalizzazione e musica del villaggio, per esempio, cioè vi spiego meglio, fra diciamo i tamburi di ogni i dialetti che risuonano e si contrappongono all'appiattimento globalizzante. ha la capacità, questa Taranta, di raccontare oggi dei grandi eventi come la nuova immigrazione, come il contrapporsi alla piattezza della sottocultura televisiva, quindi una serie di cose che rendono questo ritmo un ritmo molto vitale, molto contemporaneo, quindi assolutamente lontano da ogni forma di nostalgia. Ecco Eugenio, però la Tarantella è ha una storia molto lunga, no? Parte dal XIII secolo, tu che sei un filologo musicale, quanto rimane di questo retaggio culturale nella Tarantella di oggi? Parte da ancora prima, si parla di 2000 anni, quello che rimane è sempre la capacità di questa musica ciclica, di questa musica mediterranea, di coinvolgere proprio fisicamente, di coinvolgere l'ascoltatore, di lanciarlo in una dimensione di trance molto, diciamo, molto pervasivo. Quindi è molto simile per certi versi agli eventi del secolo scorso che erano i grandi raduni rock. Questa terzina piccola può essere espressa in vari modi, però nel momento in cui scatta fa scattare un grande rapporto con il pubblico, purché si rispetti proprio il senso ritmico, vorrei dire un DNA ritmico che non può essere sopraffatto da niente. Ecco, ma si parla di varie tarantelle, no? Da quella pugliese a quella calabrese, sì, a quella napoletana. Tu come napoletano come la vedi? Ma che ogni paese diverso. Stai facendo il politically correct, dicendo la verità. Qual è quella che piace di più? Ma io devo dire che ogni forma, cioè, questa leggenda viene interpretata in ogni paese in modo diverso, e ognuno può rivendicare giustamente il diritto di... Scusa un attimo, sto salutando Enzo Abitabile, sto salutando di Enzo. Enzo, sto in collegamento in diretta, non so con che qua. Sarà ciao, praticamente ciao, anche al festival, no? Che sarà al festival. Sì, sì. Enzo Abitabile che stasera sta al festival, sì. Direi ogni paese, ogni villaggio rivendica che la sua è la tarantella autentica, ed è così, è vero per tutti così, ma questo è vero perché l'importante è che sia una musica che non abbia la deriva commerciale, una musica diretta, scelta dalla comunità per rappresentare se stessa. Questo è il messaggio forte e importante. Non so se lo vorrei dire in maniera più semplice, è importante che ogni ragazzo parli il suo dialetto, che parli l'inglese, che parli l'italiano, ma che si esprima anche attraverso la lingua dei suoi del suo villaggio, perché è questo che oggi la civiltà globale ci consegna e ci suggerisce. È importante sentire le lingue degli africani, le lingue degli arabi, in questa babele di linguaggi che proprio vengono accomunati da internet, è importante che ognuno mantenga la sua identità, se no l'alternativa sarebbe quella di un mondo piatto che parlano tutti la stessa lingua e fanno tutti la stessa musica. Per fortuna non è così. Vanno da Starbucks e mangiano gli hamburger da McDonald's. Allora, noi combattiamo questo a Kaulonia, in provincia di Reggio Calabria. Da questa sera abbiamo sentito il direttore artistico del Kaulonia Tarantella Festival, grazie ad Eugenio Bennato. Abbiamo sentito che è già arrivato Enzo Abitabile, che sarà in scena proprio questa sera. L'appuntamento è a che ora, Eugenio? Alle 22, come tutte le sere, parte il festival, è l'orario giusto perché il festival poi va avanti fino a tardi. Va bene, grazie Eugenio Bennato, tutti a Kaulonia per scoprire e riscoprire la tarantella. L'anima persa tra quella folla, a tempo cocola, a tempo catamor. L'anima persa nella taranta, a tempo che strega, a tempo che briga. Per quella strada sud del mondo dove batte il tempo del E grazie a questo ritmo che io saluto in regia Valerio Rocchetti, in redazione Gloria Guerrera, vi ricordo che potete riascoltare la puntata sul nostro sito www.radio24.it o che potete scriverci a summertime@radio24.it. Buona serata e buona tarantella.